Buongiorno a tutti e tutte, siamo qui su Radio ZM per una delle interviste, volevamo parlarvi di Genova. Questa volta è un caso speciale, dato che io sono un fesso, mi sono dimenticato di accendere i microfoni l'ultima volta quando abbiamo fatto l'intervista con Luciano Mulbauer, per cui questa volta dobbiamo fare una ripresa, un retake dell'intervista. Cercheremo di non ripeterci troppo, più che altro io cercherò di non ripetermi per non annoiare Luciano, che è stato così gentile da darsi di nuovo disponibile per un'altra intervista su Genova. E niente, bene, allora il progetto rimane sempre lo stesso, stiamo raccogliendo delle interviste da parte di alcune persone che erano presenti nei giorni di Genova e li hanno vissute, diciamo, da protagonisti, da protagoniste, per cercare di sviluppare un discorso pubblico, politico, che sia una specie di la possibilità di creare una storia su Genova e non soltanto la collezione delle memorie individuali. Basta, non ci ho fatto troppo lungo, anche perché Luciano è già la seconda volta che ascolta questa introduzione. A questo punto ricominciamo con la prima domanda, come l'altra volta. Se Luciano, hai voglia di presentarti e raccontarci a Genova, come arrivavi, qual era la tua esperienza personale e qual era il tuo vissuto, il tuo portato mentre andavi verso Genova? Anzitutto ciao a tutti e tutte, io sono arrivato a Genova, diciamo, verso Genova nella veste di attivista militante del Sincobas, di cui facevo parte della segreteria nazionale, comunque ero anche delegato eletto, eccetera, eccetera. E quindi noi in qualche modo, verso quella dinamica di movimento che si stava manifestando in quegli anni lì, era quasi naturale esserci dentro. Perché per fare un po' un salto nel tempo, nella seconda metà degli anni 90, ci furono in realtà già prime esperienze di mobilitazioni sovranazionali. Forse qualcuno si ricorderà, dei meno giovanissimi, diciamo, che ci furono le marce europee contro la disoccupazione e la precarietà, che metteva insieme sia movimenti di disoccupati, in particolare francesi, e di precari, con esperienze sindacali principalmente di base, ma non soltanto, e si costruiscono le mobilitazioni europee sul tema del lavoro, della disoccupazione e della precarietà. E ci furono diverse elezioni in Colonia, Lussemburgo, e soprattutto quella che è rimasta nella memoria collettiva, anche perché partì un treno speciale da Milano, quella di Amsterdam. Quindi in qualche modo era naturale stare in quella dinamica. Poi appunto nel 1999 ci fu a Seattle, che era la prima, diciamo, un po' la madre di queste mobilitazioni contro la globalizzazione neoliberista, e della città statunitense di Seattle ci fu una grossa contestazione di un vertice internazionale che in qualche modo ha fatto nascere nell'immaginario il popolo di Seattle, si diceva allora. E nel 2000 questa dinamica si diffondeva, diciamo, oltre gli Stati Uniti, era una dinamica generale. C'era a Praga un vertice, io credo, se ricordo bene, della NATO nel 2000, dove sempre ci fu una mobilitazione con persone da tutti i paesi europei. E poi verso la fine del 2000 ci fu a Nizza una grossa mobilitazione contro, di critica, verso un vertice europeo che in quegli anni lì, appunto, come poi sarebbe andata avanti così, metteva sul piatto la destruzione dei diritti acquisiti, dei diritti sociali, si andava verso le privatizzazioni, liberalizzazione, togliamo lacci e lacciuoli, insomma, al capitale. C'è una grossa mobilitazione con un accerchiamento già allora del vertice. Ci furono degli scontri, come italiani un pezzo eravamo a Nizza, prendevamo le botte lì, un altro pezzo era bloccato sul treno a Ventimiglia e anche lì ci furono momenti di scontro con la polizia, quel caso italiano, Nizza con quella francese. Quindi in qualche modo si era dentro una dinamica che, cioè Genova non è nata a Genova, adesso per dirla così, è nata un po' più in là. Quindi eravamo dentro, e quando si seppe che a Genova ci sarebbe stato il G8, già verso la fine del 2000 ci furono le prime riunioni a Roma tra alcuni, e si stabilì una specie di patto di lavoro per preparare Genova. Poi nel gennaio 2021 ci fu il primo forum sociale mondiale di Porto Alegre, che era nel dicembre del 2001, che si chiamava Forum Sociale Mondiale in opposizione al Forum Economico di Davos, che era un'altra scadenza che fu contestata in quegli anni lì come simbolo della globalizzazione liberista, e fu proprio Porto Alegre che gli italiani lì presenti, c'erano cioè presenti dai Cobas ai movimenti più radicali fino ai movimenti più moderati tra virgolette, perché guardando da oggi il moderato di allora forse è un po' più radicale di oggi, e si pose, ragionammo, portammo lì alle zone brasiliane, a TAC Francia che allora era veramente forte, l'esigenza che cioè, diciamo, noi vogliamo organizzare la contestazione del G8 di Genova e vogliamo fare un controvertice con altri contenuti, e chiedemmo che il Forum Mondiale in qualche modo facesse proprio quella scadenza. Alla fine questo evidentemente avvenne, cioè Genova fu in quel gennaio 2001 fu dichiarata in qualche modo assunta dal Forum Sociale Mondiale come una scadenza internazionale. In cambio però ci chiesero subito gli italiani, però smettete, cioè noi non possiamo parlare con 20, con 30, ognuno con una voce diversa, dovete costruirvi un punto di riferimento organizzativo politico unico, questa era una condizione, in qualche modo ci hanno costretto ad accelerare, e lì era nata quello che allora si chiamava la delegazione italiana, che poi in Italia sarebbe tradotta qualche mese dopo nella costituzione del Genova Social Forum, cioè appunto un punto di riferimento unico che mettesse insieme tutte le differenze, ma per costruire il controvertice al G8 di Genova, con la partecipazione internazionale che a questo punto era incentivato anche a livello globale, diciamo. Il fatto che Genova fossero presenti le madri di Plaza de Mayo, che fossero presenti i sindacalisti brasiliani e del movimento Sentera brasiliano, che fossero presenti esponenti di movimenti sociali di tutta l'Europa, non era un caso, è nato in questo tipo di percorso. Quindi io sono personalmente arrivato a Genova in questo percorso, nella veste appunto prima di tutto per la mia organizzazione di allora, il Sincobas come attivista sindacalismo di base, e poi con l'occasione del Genova Social Forum anche come diciamo componente di quello che fu chiamato Consiglio dei Portavoce, che era in qualche modo un ambito che cercava di tenere insieme, dove c'erano dentro tutti, diciamo tutti, tranne quello che poi sarebbe manifestato come blocco nero, che non ha mai cercato comunicazione. Tutto il resto, dagli antagonisti, i disobbedienti, fino all'Arce, le ONG, anche settori cattolici cristiani, stavano dentro nel GSS. Ma invece per quanto riguarda il sentire generale riguardo all'opposizione a questi summit, l'altra volta tu parlavi del grande ruolo dei giovani e del fatto che si avvertisse tanto che c'era un movimento reale che esisteva, tu cioè questa sensazione, giustamente adesso magari ne citi i ricordi, ma cos'è che te le faceva avvertire che c'era questa mobilitazione reale? Ma anzitutto che a livello internazionale succedevano queste cose, appunto quello che ho detto prima, Seattle, okay, Praga, Nizza, già ci si muoveva, stava succedendo qualcosa, se ne usava l'aria. Poi stava succedendo anche in Italia, tutto nei mesi precedenti di avvicinamento a Genova, cioè si sentiva nel confronto con le persone, nelle iniziative di preparazione, che entrava in qualche modo in campo, diciamo, manifestava la sua partecipazione, soprattutto una nuova generazione, non solo magari chi già aveva alle spalle esperienze di mobilitazione o era abituato a manifestare, che era interessato alla cosa e si sentiva partecipe, ma soprattutto anche una nuova generazione di giovani, giovanissimi, senza ovviamente una precedente esperienza politica di collocamento delle collettività eccetera. Ho fatto l'altra volta l'esempio di Como, che rifaccio perché era una cosa che mi è rimasto molto nella... aveva colpito già allora molto, venne invitato un dibattito cioè alcuni mesi prima di Genova a Como, chiedendomi no, così spieghi un po', qua voglio sapere cosa succede a Genova, come andarci, un ragionamento eccetera. Mi aspettavo come al solito quando andavi a Como 20, 30, magari 40 persone. Non proprio la città rossa, ecco, per dire Como. Sì, appunto. Anche visto il reddito medio, senza, tendenzialmente, non proprio. Senza offesa per però non è proprio il centro della risoluzione mondiale, Como. Però no? Non ancora, quantomeno. Invece è successo una cosa, sono entrato davanti, era l'atrio di una festa lì, era già verso l'estate, che c'erano 200-300 persone, di cui gran parte erano giovani, giovanissimi, studenti, eccetera, che seguivano, che volevano sapere, che erano, ascoltavano, proprio interessati, cioè una cosa che mi aveva un po' sconvolto. E lì, in qualche modo, se io devo trovare un momento nella mia memoria personale, dico, cazzo, qua succede qualcosa di nuovo anche in Italia, era quello il momento. Questo sicuramente, poi man mano si è sentito, tant'è vero, cioè quando cresce un movimento in qualche modo tu avverti attorno a te l'aria che cambia. Sì. Ed è quello che stava succedendo nei mesi precedenti a Genova. Sì, sì, sì. E effettivamente anche io, se faccio il piccolo paragone con altre piccole giornate dove si avvertiva che c'erano tante persone, lo senti proprio, che c'è una diversa attenzione, una diversa percezione della giornata. Sempre l'altra volta avevi fatto un riferimento, cioè avevi fatto riferimento alla possibilità che quel movimento fosse così forte perché rappresentava un moto di ribellione alla fine della storia del carissimo Fukuyama, per cui c'era la possibilità che magari tutte queste persone dentro un movimento che ha portato alle giornate di Genova e anche alle altre mobilitazioni si rendesse conto che bisognava opporsi da subito, o che c'era la possibilità di creare un mondo diverso ora che era finita la guerra fredda, ora che non esisteva più i vecchi rapporti di forza a livello proprio mondiale. E allora questa cosa un po' mi ha sempre incuriosito, cioè quale, in che maniera i movimenti dopo lo crollo dell'Unione Sovietica si ponevano in relazione a quell'esperienza, al socialismo reale, all'esistenza di un paese formalmente comunista che poi magari al suo interno nascondeva più tratti antidemocratici, autoritari e totalitari, piuttosto che il vero sogno marxista da cui era nato. E a questo punto, cioè, la domanda che ti volevo fare era questa: all'interno delle mobilitazioni del popolo, dei popoli di Seattle, dei movimenti che si sono presentati a Genova, viveva di più l'ipotesi di creare una cosa che fosse diversa dall'Unione Sovietica, diversa dagli Stati Uniti d'America, dal mondo occidentale? Viveva di più ancora la capacità di 50 anni di partiti di estrema sinistra o comunisti ancora di avere un radicamento nella popolazione, per cui c'è ancora una formazione capace di portare in piazza le persone, o nessuna di queste due cose? Magari non mi sono espresso bene nella domanda. Sì, però. No, in realtà non è facile cercare di rispondere in poche parole, nel senso che è chiaro che noi siamo negli anni 99, 2000, 2001, e quindi è chiaro che chi non era giovanissimo si portava alle spalle l'esperienza, anche la memoria di quello che era il mondo normale di allora. C'era il blocco dell'est, il blocco dell'ovest e un muro di Berlino in mezzo, adesso per banalizzarlo. Era il mondo di allora, cioè il mondo è comunque cambiato col crollo del muro di Berlino e l'implosione del campo socialista. Come abbiamo visto, chi magari solo per lontane origini era più legato al, diciamo, al comunismo ufficiale, allo stalinismo, a quello che era l'Unione Sovietica e il cosiddetto socialismo reale, in realtà il grosso ha fatto la fuga verso l'allontanamento, verso vidi socialdemocratici, e poi senza fermarsi sempre più in là. La storia del PC che poi diventa DS e poi alla fine diventa PD, insomma, questa era un po' la dinamica, mentre il grosso, io credo che era dentro il fiume di Genova, quella generazione di cui ero parte anch'io, cioè chi anche veniva da esperienza anni 70-80, sia le organizzazioni extraparlamentari, sia il movimento dell'area dell'autonomia, eccetera, in realtà sono in larga parte sempre state e vissuti che erano comuniste, ma non si riconoscevano nel socialismo reale, le criticavano e da un altro punto di vista. Questo in qualche modo c'era da parte di chi veniva prima, quindi verso Genova io non mi ricordo che ci fosse un minimo di nostalgia verso un mondo che era finito, anzi era la ricerca di ricostruire un'altra opzione opposta, in contrasto, in antagonismo al capitalismo, eccetera, che era ormai dominante, come tu hai detto, visto che gli altri sono crollati, la narrazione dominante che in qualche modo si stava facendo largo, ormai il mondo è unipolare, è rimasta solo un'opzione in campo, quindi la fine della storia, come diceva Fukuyama, ha scritto un libro con questo titolo, in cui diceva, ragazzi, state provate altre strade, ma non ce n'è ormai, c'è solo un mondo possibile, cioè il capitalismo nella forma concreta poi della globalizzazione neoliberista che aggrediva frontalmente tutte le conquiste dei decenni precedenti sociali. Come sempre accade, quando cambiano i rapporti di forza poi cambiano anche le cose. Quindi sicuramente da chi veniva da un'esperienza precedente si riconosceva nella possibilità, o si apre uno squarcio, una possibilità per ricominciare a ragionare su un'alternativa, no? Mentre i più giovani non potevano avere memoria di quello che era il mondo di prima, l'avrebbero sentito parlare dai genitori, dai fratelli, dal fratello maggiore, magari dallo zio, dalla zia, però loro non ce l'avevano. Eppure si capiva che questo mondo, questo unico mondo possibile, non era presentato, la fine della storia non era un mondo desiderabile, non era un mondo possibile, era un mondo che allargava le contraddizioni sociali, le differenziazioni sociali, che si costruiva attorno a alcuni interessi potenti e escludeva gli altri. Quindi da lì è nato, identificando questo movimento nei fatti, perché questo è il dato storico, nella contestazione dei grandi vertici internazionali, che allora era la stagione dei grandi vertici, si iniziava a parlarsi il G8, il forum sociale, dove i potenti della terra si incontravano per ridisegnare il mondo in base ai loro interessi, escludendo il resto dell'umanità. Questo in qualche modo era la cosa. E il fatto che questo movimento coniasse il termine, questo viene da Porto Alegre proprio, ma poi diventò di tutti, un altro mondo è possibile, che oggi può anche suonare banale o moderato, quello che vuoi, ma allora era una cosa dirompente, perché finché lo dice il vecchio militante che viene da prima, il singolo intellettuale, va bene, l'abbiamo già sentito. Quando iniziano a dirlo movimenti di massa che si incontrano, che si mobilitano, che sono anche molto giovani nella partecipazione, allora il discorso cambia, come si dice, un altro mondo è così. È la rottura in quel senso lì della narrazione della fine della storia, del pensiero unico, per usare termini che allora andavano di voga. Quindi okay, sicuramente quel punto, non tanto Genova in sé, che era un pezzo di quel movimento, ma quel movimento in quanto tale, dunque anche Genova, rappresentava una forte rottura con tutto sul piano della culturale, della narrazione dominante, rispetto appunto alla tesi che la storia è finita, se non c'è più l'Unione Sovietica non c'è più nulla. No, invece no, c'era qualcos'altro ancora. Va bene, allora a questo punto vorrei provare ad andare avanti con la seconda domanda. Questa volta la leggo, perché l'altra volta penso che abbia di aver perso dei passaggi mentre te la facevo. A fronte dell'intensità di quelle giornate, ti chiediamo se ti va di raccontarci come sei tornato da Genova. Ci rendiamo conto che sia una domanda difficile, e per questo ti chiediamo se ti andrebbe di raccontare, anche a livello individuale della tua collettività, come si erano modificati i rapporti tra le anime del movimento a fronte delle giornate di Genova. Ma in realtà tra le anime di movimento, se lo vuoi mettere su quel piano lì, io credo che si sia rafforzato il legame in gran parte. Non è mai valido per tutti, ma in gran parte io ho una memoria che con qualcuno che non ci potevo guardare, è sempre successo, in qualche modo abbiamo rievocato, per fare un esempio, quando a Porto Alegre dovevamo metterci d'accordo, io guardavo storta una compagna dell'Arci pensando burocrate di merda, e lei poi mi aveva detto, mi guardava storto me pensando estremista del cazzo. Cioè, alla fine però hai costruito insieme la cosa e hai attraversato Genova insieme, tenendoti unito, perché non sono riusciti a dividerci nonostante la repressione. Questo crea dei rapporti diversi, e soprattutto credo che crei la consapevolezza che si possono fare delle cose insieme, anche se si è diversi, però devi avere dei punti d'incontro forti. Cioè, io ricordo tra chi c'è stato Genova, sia chi aveva dei ruoli, chi ne aveva di meno, io credo che in qualche modo ci si riconosca. Quelli che hanno fatto Genova si riconoscevano tra di loro. Hai attraversato i sogni, le emozioni, il dolore, la rabbia, l'incazzatura e le paure insieme. Insomma, credo che questo sia sicuramente una cosa che che io mi è rimasto, ma non lo chiedo solo a me. La seconda cosa, un'esperienza del genere ti cambia, cioè ti cambia, lo puoi dire a maggior ragione 20 anni dopo, nel senso che diventa, è stato di fatto uno dei passaggi che ti ha formato, ha contribuito a formarti, a imparare molto, sia sui rapporti tra compagni e compagne, dentro a soggettività, ma anche in relazione allo Stato, non perché avessimo illusioni prima, però lì si è manifestato un tipo di violenza che in Italia nel 2001 non era in qualche modo previsto da nessuno, in quella dimensione, con quella forza, non che non fosse prevista, anche una reazione forte, ma non in quei termini lì, cioè di una sospensione di fatto dello Stato di diritto, delle normali, tra virgolette, regole del gioco, per 2 giorni, non voleva più niente le regole del gioco, era tutto un altro tipo di relazione, di confronto. Quindi io mi sono portato dietro, ovviamente sono tornato da Genova con un sacco di cose in testa, ma soprattutto con la cosa di non fermarsi, di andare avanti, cioè dire non ci hanno, non ci possono fermare, non possiamo accettare che ci fermino. E allo stesso tempo è chiaro che per molto tempo di notte magari si è trovato qualche scena, qualche incubo, eccetera, cioè ci sono, io conosco compagni che magari erano meno abituati alle manifestazioni, a certe cose, che ci hanno messo qualche anno a rifrequentare una manifestazione, qualcun altro che quando sentiva un elicottero in giro si agitava. A me tornava sempre l'immagine della Diaz quando siamo entrati, quando la polizia è andata via, cioè per parecchi anni ogni tanto mi tornava, però ce l'avevano un po' tutti, perché non è teoria, era cosa vissuta e subita nel bene e nel male. A questo punto allora ti chiedo un'altra cosa, perché in realtà adesso di interviste ne abbiamo fatte già alcune a diverse persone, e quasi nessuno ci aveva riportato questa idea del tipo che si era uscita più forte di prima perché le relazioni si erano strette. Molte volte invece si fa riferimento alla divisione buoni e cattivi, che fu fatta sicuramente dal media mainstream, dal discorso politico, per cui i violenti erano solo alcuni, eccetera eccetera. Talvolta purtroppo anche parti del movimento presero parte ad accusare altre parti del movimento presente a Genova di aver generato una situazione non ospitale per tutti gli altri, di aver imposto, eccetera eccetera. Tu come hai vissuto la divisione buoni e cattivi che è stata fatta? Come ti relazionavi a chi la faceva o alle situazioni in cui veniva fatta? Ma io credo che sempre quando si ascoltano diverse voci e si sentono cose apparentemente contrastanti, io credo che bisogna sempre un po' collocare i ragionamenti nella loro prospettiva. Uno da che prospettiva dice la cosa? Per cui poi magari si scopre che non stai dicendo cose così diverse. Sicuramente c'è stato un tentativo perenne da parte del governo, eccetera, di dividere il Genoa Social Forum, le forze che stavano dentro Genoa Social Forum, che ricordo che stavano dentro la disobbedienza, stava dentro gli antagonisti, stavano dentro l'ACI, stava dentro la FIOM, stava dentro il sindacalismo di base, stavano dentro alcune ONG, stava dentro ATTAC, stava dentro Rifondazione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè era molto composito. È chiaro che lì già c'erano buoni e cattivi, se vogliamo vederlo dal punto di vista dall'esterno, però non erano mai riusciti in nessun passaggio, nemmeno dopo il 20 luglio, a dividere dentro lì. Si è sempre tenuto una linea di condivisione e di lettura sulle cose fondamentali. Faccio sempre l'esempio del 20, quando ci fu la grossa repressione, pomeriggio poi via Tolemaide, l'omicidio di Carlo, con una situazione tardo pomeriggio verso sera allucinante, la gente impaurita, che non voleva più andare nel loro campeggio, vari campeggi che ci sono, che paure, rabbia, tutto che si mischiava, disorientamento. E lì anche da fuori Genova ovviamente chiamavano i compagni delle città per dire: noi abbiamo un treno speciale, ma domani cosa succede? C'è una manifestazione, non c'è più, il governo che diceva tornatevene tutti a casa, qua è il caos, i DS appunto l'ex PC diventato DS, che tre giorni prima avevano detto no, vengo anch'io alla mansione del 21, che subito iniziavano a dire no, non bisogna più manifestare, bisogna stare a casa, non ci sono più le possibilità, lì ci sono casini, eccetera eccetera. Di fronte a quello dovevi parlare sempre ancora una volta con voce unica, perché il movimento non, quando ti dividi poi è la fine. In quel momento lì però hanno tenuto tutti, qualcuno ha vacillato, ma hanno tenuto anche settori che non era scontato che tenessero, tipo la FIOM e l'ARCI, per dirlo, che per la loro collocazione erano in parte anche ancorati a settori più moderati, e loro hanno detto invece no, bisogna manifestare, bisogna dare una risposta politica di massa a quello che è successo, dichiarando pubblicamente che la responsabilità delle violenze e dell'uccisione di Carlo è unicamente delle forze dell'ordine, e quindi non sono riusciti a dividere il GSS. Poi c'è stato un altro tipo di divisione tra buoni e cattivi, che forse è quella a cui alcuni, che qualcuno a cui ha intervistato alludeva, che vuol dire quelli del GSS e il blocco nero. Dopo Genova ci fu questa cosa qua, non solo gli eccessi complottistici che non avevano senso allora, non hanno senso oggi, che dicevano erano tutta una massa di infiltrati della polizia che hanno fatto queste cose qua, cioè non riconoscendo la soggettività del blocco nero come un dato sociale politico autonomo, realmente esistente, non un'invenzione del servizio, cose del genere. Evidentemente c'erano degli infiltrati, così come li avremmo avuti noi, ma fa parte del gioco, però la realtà non era questo. Quindi queste sono sciocchezze, però quello che sicuramente è vero, che il grosso dei manifestanti, anzitutto di chi ha partecipato a Genova, chi ha vissuto Genova, guardava il blocco nero come un avversario, quasi un nemico. Io mi ricordo sempre che infatti il blocco nero in Italia è sparito per molti anni dopo Genova. Mi ricordo la manifestazione del Forum Sociale Europeo l'anno successivo a Firenze, che c'erano 80-90.000 persone, e c'era in giro un clima che uno vestito di nero, che oggi sarebbe un disastro, che è molto fashion vestirsi di nero, già. Però uno vestito di nero rischiava, come ha dovuto praticamente salvare qualcuno che semplicemente era vestito di nero, per cui c'era una fobia, diciamo così, verso il nero, perché è stato vissuto questa cosa qua come quelli che in qualche modo hanno aiutato alla repressione. Questa è una lettura però molto di massa. Un'altra cosa è se partiamo le letture di settori politici. Quello che io ti posso dire è quello che penso io di questa cosa qua. Io quello, in base a quello che io ho vissuto e visto, cioè non quello che mi è stato raccontato, io credo che evidentemente la polizia, i carabinieri, chi aveva in mano la gestione della cosa, ha usato in qualche modo la presenza del blocco nero. C'erano diversi casi, l'ho visto io con i miei occhi, dove il blocco nero faceva le sue azioni e caricavano tutti gli altri, e non caricavano mai, quindi c'è stato un uso strumentale, ed è questa la base per cui è nata poi la leggenda che era tutta una truppa di infiltrati eccetera, e che ha portato purtroppo a una cosa che è molto brutta, che interi settori di movimento facevano finta di non vedere, tuttora fanno finta di non vedere, ecco perché dopo 20 anni quella vicenda non è chiusa, che hanno pescato alcuni manifestanti e li hanno messi sotto processo dopo per devastazione e saccheggio, no? C'è una logica, quelli a Genova, i manifestanti hanno fatto devastazione e saccheggio, lì hanno preso qualcuno che era col blocco nero, ma anche qualcuno a casaccio, da tutte le parti, non è che ci fosse una logica. Alcuni di questi, che poi nel 2012, non vorrei dire una sciocchezza, 2012, la Cassazione doveva confermare o meno per 25 di loro la condanna. Non era per tutti, ma alcuni furono condannati a lunghi anni di detenzione e due persone tuttora oggi in Italia non hanno finito di scontare la pena. Siamo nel 2021 e due persone stanno ancora scontando una pena perché accusati di devastazione e saccheggio, ovvero di un reato che non è in base a quello che tu hai fatto, ma in base a che tu l'hai fatto in un contesto che è stato definito di situazione saccheggio. Cioè poi rompere una vetrina, situazione saccheggio, ti rischi 7-8 anni. Due stanno ancora scontando la pena, una terza persona che è riuscito a scappare è stata un po' di mesi fa fermata in Francia e l'Italia ha chiesto l'estradizione, adesso inizia l'iter, non so come va a finire, ma in Francia non esiste reato di versione saccheggio e forse riesce a cavarsela. Mm-hmm. Però dico, la storia non è chiusa, perché 20 anni dopo esistono questi casi e buona parte di movimento, quando dico di movimento, settore di movimenti, dico a chi in qualche modo è una collettività organizzata che riesce anche a trasmettere i messaggi, riesce a ragionarci, ha sempre ignorato quelle persone lì, e questo credo che sia grave quando si parla di buoni e cattivi, di non riuscire a capire quello che venne a Genova, che appunto a Genova il problema non era qualche blocco nero, anche se loro hanno agito in autonomia, hanno agito senza cercare un minimo di confronto con il grosso, che appunto il grosso va dai movimenti antagonisti fino ai più moderati, e agendo in base a una propria impostazione che se ne fregava dell'impostazione della discussione tra tutto il movimento. Però questa è una questione politica. Altra questione è costruire un ragionamento su buoni e cattivi, dove qualcuno, solo perché è stato sfigato, è stato pizzicato in piazza, deve fare anni e anni di galera, che non trovano una minima giustificazione da nessun punto di vista, da nessuna parte della terra. Quindi nel decennale, nel 2011, ci fu un tentativo e c'è stata una piccola campagna per liberiamoli, per mettere al centro l'attenzione, era anche fatta bene, ha coinvolto settori più ampi del movimento, soprattutto settori diciamo più legati ai movimenti sociali, non tanto ai settori più moderati, ma fu come un fuoco di paglia, no? Di fatto oggi, in tutti questi anni, chi ha seguito queste persone eccetera è stato fondamentalmente supporto legale e poco altro. Sì. Va bene, allora prima di fare una prima pausa musicale volevo farti quest'altra domanda. L'altra volta avevi accennato al fatto di quando ti avevo chiesto riguardo a cosa avevi avvertito al rientro da Genova, avevi accennato una cosa secondo me veramente importante, cioè peculiare. La possibilità che a Genova quello che si era sperimentato era il fatto che la controparte, quindi essenzialmente il Ministero degli Interni, la Polizia, i Carabinieri, il Governo, lo Stato, non avesse ceduto in nessuna maniera. Cioè si era riscontrato il fatto che non c'era alcun tipo di apertura possibile da parte di chi aveva il potere in quegli anni ad accettare, capire, comprendere, permettere la presenza del dissenso o di una forma di, come si dice, di ribellione allo stato di cose. Questa cosa, cioè, mi è rimasta molto nella testa, perché di fatto se anche noi oggi vogliamo cercare di creare qualcosa, di sfidare chi ha il potere adesso, probabilmente ci scontreremmo con lo stesso tipo di gestione. Cioè, a partire da quello ho iniziato a riflettere anche su come è stata gestita l'opposizione alla riforma Gelmini con l'Onda, come è stata gestita, non so, tutti gli altri movimenti, il movimento contro la TAV. Per cui, cioè, la cosa che ti volevo chiedere era se vuoi raccontare qualcosa in più rispetto a questa parte, cioè la riflessione legata al come hanno risposto, non soltanto con la repressione, ma a livello concettuale. Cioè, c'è stata una. Non so come dire. Dov'è possibile riscontrare invece un momento dove questa cosa ha ceduto, o come sarebbe stato possibile far cedere lo Stato in qualche maniera, se non così, dato che così si è visto che non si è riuscito a fare? Insomma, magari non si capisce. Ma. Sì, no, si capisce benissimo, è la risposta che è più complicata trovarla, nel senso che dobbiamo scriverla tutti insieme nel futuro, cioè questo intendo dire. No, ma quello che dico, a Genova in realtà noi abbiamo riscoperto un'antica verità, realtà, che in realtà non è sconosciuta, cioè non è che un sistema, quello capitalistico, con tutti gli interessi materiali in campo, con gli interessi di classe, se vogliamo usarla in una terminologia più classica, non è perché se tu fai un po' di casino loro si spostano, non è se tu diventi tanti e loro pochi allora democraticamente mollano al colpo, purtroppo non succede così, succede così nelle favole che si raccontano, nella realtà purtroppo le cose non succedono. Quello che mi pare evidente poter dire è che nel tempo attorno Genova ci fu probabilmente, evidentemente, anzi, una presa d'atto di un movimento che non era tre ragazzini che facevano casino davanti alla scuola, quindi bastava lì e dare due schiaffoni, adesso lo dico così, certo, senza offesa per gli studenti, perché l'abbiamo fatto, chi l'ha fatto? Abbiamo preso gli schiaffoni, no? Esatto. E niente, però era qualcosa di più grosso che stava mettendo in campo, appunto, una giovane generazione, ma anche organizzazioni sociali, movimenti sociali, era una cosa reale. Cioè in Brasile quelli che tenevano in piedi il Forum Sociale Mondiale l'anno successivo avrebbero fatto vincere Lula alle elezioni, che era una rottura non indifferente in un paese grosso in America Latina come il Brasile. Due anni prima di Porto Alegre Hugo Chavez diventò presidente del Venezuela, stavano succedendo delle cose che mettevano in discussione anche rapporti di forza, eccetera. C'erano organizzazioni sindacali presenti a Genova, c'erano organizzazioni più moderate anche, o una volta più moderate. Si apriva uno spazio nuovo di critica radicale nei confronti della globalizzazione neoliberista, ed era anche capace di esprimere contenuti alternativi, perché c'erano molti movimenti, anche settori intellettuali, che iniziavano a fare elaborazione. Non sento dire non va bene, anche ragionando su cosa può andare bene. I temi posti allora erano molto moderni. A Genova la mansione di cui si parla di meno, perché non è stata repressa, che era la prima, quella internazionale dei migranti, era molto moderna. Cioè allora era una cosa estremamente nuova, c'erano già movimenti migranti, ma i temi che poneva l'Europa, che chiudeva le frontiere, l'immigrazione, la libertà di circolazione, i diritti, eccetera, era molto moderna. Tutti i temi sollevati ai tempi di Genova rispetto al mondo che si stava costruendo sono quelli che oggi si confermano essere centrali. Penso che sia stata la consapevolezza da parte di chi deteneva il potere politico che quel movimento poteva rappresentare un problema e che bisogna iniziare un po' a stroncarlo. Tanto è vero che c'è stato un crescendo repressivo verso Genova. A Napoli il Global Forum di marzo è stato, ancora col governo di centro-sinistra, ben inteso, fu represso abbastanza violentemente, in una maniera atipica anche lì, cioè c'era qualcosa di diverso, perché quando tu carichi una piazza non lasciando una via di fuga, che c'era proprio un cantiere in mezzo, tu rischi davvero di produrre tanto male a tante persone. Si sta anche producendo un messaggio a livello di gestione della piazza, cioè dalla gestione della piazza si produce un messaggio: noi non vogliamo più permettervi di andare via, vogliamo farti del male. Se tu vuoi liberare la piazza, lasci una via di fuga e sciogli il corteo, lì no, chiudevano. Che poi è riuscito ad aprire, chi c'era Nap si ricorda, in un angolo, anche grazie a un camion che c'era, si riusciva ad aprire una via di fuga. Poi soprattutto c'era Göteborg, che era circa un mesetto prima di Genova, dove c'era una contestazione di un vertice europeo, stava sempre quella dinamica di contestazione dei vertici, dove nella democraticissima Svezia, almeno questa era l'idea che avevamo noi qua, la polizia ha sparato, ha fatto sui manifestanti, ha ferito uno più seriamente e qualcun altro più leggermente, però fu un fatto nuovo, cioè è stato sparato su una manifestazione e non in un paese d'altro capo del mondo dove c'è la dittatura, dove le cose funzionano così, no, in Svezia. E quindi era chiaro, ed è questo il motivo per cui noi avevamo chiesto al governo il disarmo come GSF degli agenti in servizio in piazza, non perché fossimo dei pazzi, ma perché stavano facendo delle cose. Ovviamente ci hanno risposto il ministro Scajola allora, e in Italia queste cose non possono succedere, e Gianni De Gennaro, loro a capo della polizia, ha detto, mi ricordo bene, finché io sarò capo della polizia mai e poi mai la polizia italiana sparerà sui manifestanti. Cioè, però era un crescendo. A Genova io credo che sia, cioè sarebbe ingenuo pensare che tutto quello che è avvenuto fosse soltanto la conseguenza di una serie di coincidenze, schegge impazzite, eccetera. Certo che c'è una schegge impazzita e quelli che esageravano erano fuori controllo, succede sempre, però lo schema d'insieme, il dispositivo che è stato messo in atto, era un dispositivo che ha avuto dei decisori a monte, qualcuno l'ha deciso e l'ha coperto. Cioè il fatto che nessuno avrebbe mai pagato per le violenze, le violazioni dei diritti umani, gli abusi, i reati commessi, che c'è sempre stato un'omertà di Stato, che proteggeva in qualche modo i responsabili, che tutti coloro i quali hanno avuto cariche di responsabilità hanno avuto delle promozioni, eccetera. De Gennaro è diventato anche sottosegretario di Stato col governo Monti. Cioè, è chiaro che c'era una decisione. Poi a posteriori anche loro forse avrebbero preferito gestirlo un po' meglio o meno alla cazzo, tipo come hanno giustificato la Diaz, ma tanto nessuno ha pagato. È evidente che è stata una decisione di dire adesso basta, bisogna stroncare questa roba. Certo. Va bene, allora a questo punto ci diamo un attimo di pausa. A noi, a chi ci ascolta, ci ascoltiamo un pezzo che ai tempi era abbastanza attuale, cioè Yankee Go Home del 99 Posse. Ci prendiamo un attimo di respiro e torniamo dopo con le altre due domande. Di spagnolo un movimento di cocaina, non ship due pasticche, non pare motorino, tutto il in testa a macchina, telefonino, chi è? Al Pacino scarpes, solo che Al Pacino moro come un cretino, tutta fatta a cocaina, imprevisti del destino, effettivamente a caso vivi loro, non c'è una bonna, suave maruchina attorno, non c'è una bonna, a colpe sulla lore, tutta la dolce sta attorno, niente ancora, non hai vista ancora, niente, ma sono carrocere, se ne salgo pavimenti, mega tanta gente senza più riferimento, a stendere niente, non vanno sapere più niente, zero cambiamenti, tutti zero tolleranti, ma zero tolleranza è un concetto, state attenti, che non fa distinzione tra immigrati e residente, perché se non hai vista ancora niente. Senti la tensione come cresce, basta un niente, l'esplosione è imminente, senti la tensione come sale, sta per scoppiare, e non hai vista ancora niente, ancora non hai visto niente, ancora non hai capito, l'esplosione è imminente, ancora non hai visto niente, ancora non hai capito, l'esplosione è imminente. Giorno la vita si ripete. uguale, 8 ore al giorno a lavorare, io sto per spendere un masale per l'affitto e bullet, fa una cosa in un daret, cosa vuoi fare progetti? Questa è la lingua attesa del nulla, è la povertà totale, penso uguale, parlo uguale, tanto vale tacere e smetter di pensare, non pensare più, pensare può far male da chi non ha mai avuto niente, da domani non si aspetta ancora niente, nei loro occhi sfuggenti nessun lampo di rivolta, niente di niente di niente, solo ostilità latente contro lei. Eccoci qua, siamo tornati con i microfoni accesi, stare molto attento che non succeda come settimana scorsa. Allora, siamo qui con Luciano Mulbauer, sono sempre le interviste, volevamo parlarvi di Genova. Allora, io sono così per una volta così tanto anarchico e quasi quasi mi faccio impressione quando dico una roba del genere che mi sento addirittura di cambiare leggermente l'ordine delle domande, perché adesso mentre il brano scorreva io e Luciano stavamo parlando di una cosa che fa riferimento più che altro alla quarta domanda, cioè che cosa non ha più il movimento, che cosa ha sconfitto il movimento a Genova, che cosa ha perso a Genova il movimento. Una riflessione che appunto avevamo fatto già l'altra volta era riguardo al qual è la percezione di che cos'è che ha portato alla sconfitta del movimento a Genova. E vabbè, basta, io finisco qui e lascio che parli Luciano, che appunto ha tante cose da dire. Sì, io credo che bisogna un po' ragionare attorno al concetto di cosa intendiamo per sconfitta Genova. Se l'idea era, se assumessimo il punto di vista che l'obiettivo a Genova era entrare in zona rossa, impedire che il vertice si potesse svolgere, allora siamo stati sconfitti sotto la linea. Ma io non penso che legittimamente si potesse pretendere di dare a questo nessuna contestazione di un vertice internazionale è arrivato ad avere questo obiettivo. E poi comunque rimarrebbe la domanda, una volta che è ottenuto quel risultato lì, qual è il proseguo politico, cioè qual è l'obiettivo politico. Se ragioniamo in questi termini, è chiaro che Genova è stata una sconfitta e basta, e lì si è aperto, chiuso il discorso. Io con questa lettura non sono d'accordo. Posso discutere, discuto da vent'anni con compagni e compagni che c'erano a Genova, che hanno fatto Genova e che hanno sempre vissuto in qualche modo Genova come la sconfitta. Dopo non c'era più nulla. C'è però una cosa più insidiosa che dobbiamo anche cogliere. In questi vent'anni, anche in questo ventennale, spesso vengono proposti dibattiti che parlano di Genova in una maniera simile. Dicono, no, c'è stato Genova, si è iniziato a Genova, è finito a Genova, è stata la repressione e poi non c'è stato niente prima e dopo. E lì spesso, andiamo a sentire, leggere quello che si pubblica, si dice in questi giorni, spesso da parte di commentatori, da Mari che a Genova non ci sono manco stati, non perché questo dico tu non ne puoi parlare, per carità, però a volte magari ti mancano gli elementi, altre volte credo che sia un pochino meno innocente da quel punto di vista. È un po' come succhiare politicità a Genova, rappresentare Genova come tante persone che avevano un altro mondo, che erano in disaccordo, che non gli piaceva l'ingiustizia, hanno protestato e hanno subito la violenza dello Stato, per cui questa analisi si colloca ovviamente contro la violenza e a favore dei manifestanti, ma allo stesso tempo ti toglie politicità, non ti ritiene un soggetto politico, perché sono loro che oggi devono parlare e spiegare quello che devi fare. Invece quel movimento aveva una forte autonomia, aveva anche una forte voce, anzi più voci, per quello fu chiamato, non so chi si inventò il termine, il movimento dei movimenti, perché è un movimento che conteneva molti movimenti. E io credo che dal punto di vista sia anche sbagliato voler togliere politicità a quel movimento e ridurre tutto al fatto della repressione, del momento dell'impatto fisico. Perché non il dibattito fisico c'è stato, c'è e ci sarà sempre, perché fa parte della cosa. Però è la politica alla fine che conta. Si era a Genova per costruire un'altra cosa in antagonismo alla globalizzazione liberista e per costruire un altro percorso. Allora, se lo prendiamo questo, l'obiettivo della repressione di Genova, cioè quello di stroncare il movimento, di far tornare le persone a casa, di fare tabula rasa, se quello era l'obiettivo, come era evidente che fosse, allora dico che non sono riusciti. Noi abbiamo portato a casa le ossa spezzate, il compagno morto, però non hanno disarticolato il movimento, non hanno fatto tornare a casa le persone. Dopo la Diaz, dopo l'ultimo atto infame, la Diaz e Bolzaneto, e tutti ormai tornati in loro città, si fece un appello a mobilitarsi contro quello che stava accadendo, anche perché c'era sempre sul tappeto la possibilità che andassero avanti con fatti repressivi, incriminazione di massa, eccetera, eccetera, perché se tu torni a casa loro vanno avanti. Le città risposero. Il 24 luglio a Milano c'era una manifestazione di 100.000 persone a Milano. Ci convocammo una assemblea in Piazza Duomo con un furgoncino, che a un certo punto era ridicolo, perché è troppa gente per un furgoncino, a un certo punto era troppa gente per la piazza, era piena Piazza Duomo. E succedeva, a Milano era la più grossa, ma succedeva in tutte le città italiane, anche all'estero, ci fu una risposta, andò avanti. Certo che cambiò i termini della cosa, ma la gente non se ne tornò a casa. Poi ricordiamoci sempre che ci fu poi l'11 settembre, che ha cambiato di nuovo il terreno di gioco, la percezione, non è più il vertice, il controvertice, eccetera. C'era la guerra al terrore, era dirompente il fatto dell'11 settembre con le torri buttate giù da Al-Qaeda. E poi la risposta degli Stati Uniti, e dunque tutti dietro, la guerra al terrore, quello che noi poi chiamammo nel movimento la guerra, la guerra permanente, la guerra globale permanente. Furono questi i settori del movimento, e neanche dopo l'11 settembre la gente tornò a casa. Ci fu una mobilitazione contro la guerra in Afghanistan. Le uniche promosse in Italia erano dai settori del movimento che venivano da Genova. Non erano le masse sterminate come altre, ma erano decine di migliaia. In quel momento lì, in cui dire non bisogna fare la guerra in Afghanistan, non attaccare gli afghani, non era molto popolare, eppure c'erano decine di migliaia di persone. L'anno successivo, nel 2002, si organizzò il Forum Sociale Europeo a Firenze, dove arrivarono decine di migliaia di persone, di nuovo pieno di giovani, che non era contro qualcosa, ma era il nostro forum sociale in cui si elaborava delle proposte, dei ragionamenti, dei percorsi, eccetera. E si ragionava sull'Europa, di critica all'Europa liberista, l'Europa fortezza aperta ai capitali ma chiusa alle persone che migrano, l'Europa che nega i diritti sociali e invece riconosce tutti i diritti alle minoranze che possiedono capitali, eccetera, eccetera. C'è un ragionamento, cioè oggi quel terreno lì dove si tende, quelli che sono più progressisti stanno con l'Europa, poi il terreno della critica abbandonato alla destra xenofoba e sovranista, non c'è più niente, tutto dopo la sconfitta del progetto di Syriza, Tsipras in Grecia, che ha preso le legnate e sono stati sconfitti. Però Genova era qua, dopo Genova c'era quel movimento, elaborava anche percorsi, ragionamenti, c'era un terreno di critica, c'era un punto di vista altro e autonomo rispetto a questa questione europea. Poi è arrivata, si è avvicinata la guerra all'Iraq, per appunto la guerra globale permanente andava avanti, e le enormi mobilitazioni, anche qua tutte le connessioni costruite nel tempo prima e durante Genova, nei forum mondiali, eccetera, hanno permesso la grande giornata mondiale, quando i giornali, forse era il New York Times, si inventò la seconda potenza mondiale, cioè il movimento contro la guerra, si manifestava in contemporanea Stati Uniti, Italia, in giro per il mondo e tutti i continenti. Era possibile anche grazie alle connessioni costruite dentro il movimento contro la globalizzazione liberista, che si è fatto necessariamente, perché se ti cambia il contesto non è che puoi ignorarlo, movimento contro la guerra. Ma appunto, io ripeto, le persone non sono tornate a casa, per fortuna non sono tornate a casa, hanno tenuto aperta la mobilitazione, un punto di vista autonomo, alternativa, ed erano molto, pur nella debolezza magari delle giovani generazioni, non perché erano cretini, ma perché i tempi, gli anni 90 non erano proprio tempi che ti aiutavano a trovare esperienze, precedenze e trasmissione di conoscenze, di sapere, come era forse nel passaggio dagli anni 70 agli 80, che pure erano di sconfitta, ma ci fu una trasmissione. Però c'era una forte politicità, certo. E questa politicità, io credo che non tanto i ragionamenti che facciamo tra compagni, dove c'erano dentro altri fattori, ma che oggi, a 20 anni dopo, in molti dibattiti cercano di rinchiudere Genova in Genova, repressione, piazza, e poi della politica si occupa. Ok, ok, allora a questo punto torno un attimino sui miei passi e quindi riparto dalla terza domanda che abbiamo preparato. A distanza di 20 anni da quei giorni, ci sono aspetti sui quali all'epoca non sei stato disposto a cedere a livello individuale o collettivo, ma che ora vedi con un'ottica un po' differente? E se ci sono, quali? Se hai voglia di raccontarci. Ma io dico, se io devo tornare indietro e dire cosa faresti diverso, quello che faremo tutti di diverso, cioè sapendo come è stato l'impatto repressivo, sicuramente avremmo cercato di altrimenti saremmo dei folli, di cambiare qualcosa. Bisogna ricordare che allora la percezione della repressione era quasi unanime, non c'era nessuna delle collettività, delle aree dentro il GSF con tutte le sfumature possibili che ha in qualche modo preventivato quel livello di repressione. Questo deve essere chiaro tra di noi, perché chi poi anni dopo ha iniziato a dire sì, non si è capito un cazzo, cioè forse non c'era, se c'era però non l'ha comunicato nel momento in cui andava a comunicare. Dobbiamo essere tutti un po' più, credo, umili da quel punto di vista, riconoscere che lì se si è sbagliato la lettura del livello repressivo è stato un errore collettivo e condiviso, perché tutte le azioni di tutte le aree possibili sono state disarticolate. La mattina a Piazza Paolo Donovi, dove ero io, perché come COBA c'eravamo nel network dei diritti globali che riuniva, diciamo, i centri sociali che non stavano nella disobbedienza, che sicuramente non erano realtà disabituate alla piazza, non siamo neanche riusciti a finire il concentramento e partire il corteo, che già ci erano sciolti a freddo. Cioè, questo è il dato di fatto. Abbiamo dovuto fare un corteo per riuscire a salvarci e qualcuno da riuscire a dare a casa, cioè in un posto sicuro. Il pomeriggio, via Tolemaide, dove invece il corteo era più preparato, l'impatto è stato disarticolato anche lì, per non parlare di tutto il resto che è successo il giorno dopo. Quindi nessuna realtà, collettività in realtà, ha previsto. Io non so cosa ha ragionato il blocco nero, francamente lo ignoro, però anche una modalità di azione che in parte non ha cercato l'impatto sulla zona rossa, ha fatto altro, quindi il problema era posto diversamente. Quindi su questo sì, su tutto il resto io non penso francamente che farei cose diverse sulla politica, sull'impostazione, sul cercare di costruire, come si è fatto, una convergenza, una cooperazione tra soggetti, non perché questo lo decidi a tavolino. Allora, il movimento realmente esistente contro la zona liberista rendeva possibile questa convergenza. Dopo Genova si parlò di, per definirlo, unità e radicalità, cioè due concetti che di solito non vanno d'accordo. Per dirci unità vuol dire moderarsi verso il centro, se dici radicalità vuol dire minoritari da un altro lato. Lì c'era una convergenza ampia su un terreno di radicalità, perché questa era la possibilità che offriva. Noi abbiamo, tutti noi, quando dico noi dico tutte le aree, perché alla fine tutti devono cooperare su quello, se no non funziona. Forse l'intelligenza e la lungimiranza è stato quello di capire che questa cosa era possibile e che dunque andava praticato. Quindi io non penso che da un punto di vista politico attorno a Genova, subito prima, subito dopo, abbiamo fatto grossi errori. Togliamo il treno della repressione, che però ho spiegato come la vedo io da quel punto di vista. Il resto io credo che abbiamo visto giusto anche sulla critica, sui contenuti che abbiamo fatto, si è dimostrato che abbiamo visto giusto sull'Europa che si stava costruendo. Abbiamo visto giusto sulla guerra, purtroppo, abbiamo visto giusto sul terreno delle disuguaglianze sociali, abbiamo visto giusto anche sui temi ambientali, anche se allora i temi ambientali erano molto più marginali, non c'è paragone con la centralità che hanno oggi. Però in qualche modo tutto quello che oggi è il mondo e che non ci sta bene, in qualche modo era presente la crisi, quindi non è quello il problema. Se tu mi vuoi dire perché poi il movimento a un certo punto è andato a quel paese, è perché lì sulla politica abbiamo fallito. Però certo, Non è neanche qua semplice capire cosa si poteva fare, ognuno ha le sue idee, adesso non tiro neanche fuori, però il fatto è che questo movimento, una volta che ha espresso il suo milione in piazza contro la guerra, contro l'Iraq, e poi la guerra l'hanno fatta lo stesso, qual era il terreno in cui questo movimento poteva andare avanti? In qualche modo si è sciolta la disponibilità a mobilitarsi, le collettività organizzate, ognuno è un po' iniziato a farsi i cavoli propri, e c'è stato un micro tentativo di fare una convergenza nel 2011, che lì a Roma, che sappiamo che come è finita quella giornata lì, nel senso che quel tentativo e non poteva andare e è finito come doveva, perché ormai i tempi erano cambiati e le condizioni erano cambiate. Ma io penso che noi dobbiamo molto più ragionare sulla politica, perché il movimento è stato sconfitto dalla politica e dopo, due anni dopo, non a Genova. Questo io credo che sia il concetto, e questo è un concetto però più complicato, perché ci costringe a ragionare su noi stessi, sui nostri limiti politici e su quello che non siamo riusciti a fare, sempre se era possibile fare qualcos'altro. Però io credo che sia questo il punto. In realtà è un po' troppo anche comodo da quel punto di vista dire che la repressione è arrivata e ci ha stroncati. E a volte è un po' comodo, appunto, lo dico sempre al netto di molti ragionamenti perché che fanno compagni e compagni che conosco bene, dove sempre tener conto il punto di vista, la prospettiva a cui si pone il ragionamento, quindi è un altro discorso. Però appunto in molte cose che io sento dire oggi a posteriori, da magari chi non c'era appunto a Genova, secondo me puzzano un po' quelle analisi. Ok. Allora, a questo punto, l'ultima domanda, in realtà ormai abbiamo già, si potrebbe collezionare tra le altre risposte che ci hai già dato, la risposta all'ultima domanda. Cosa manca al movimento oggi per tornare a essere così forte, così anche intimorente nei confronti del potere, dello Stato, tanto da generare la necessità di una repressione così forte, anche se appunto non è stato poi quello la vera causa della fine del movimento di Genova? Cosa manca oggi che allora c'era? Ma sai cosa manca? Bisogna anche qua capire cosa stiamo parlando. È un po' anche qua semplice dire essere troppo un po' soggettivi e dire basta che tu fai così poi le cose funzionano. In realtà c'è sempre l'incontro da delle circostanze che ti trovi davanti, dalla situazione che ti trovi davanti, dal movimento reale che si muove, e a delle scelte soggettive che tu fai dentro lì. In assenza di, allora c'era un movimento che in qualche modo, c'era un conflitto che stava emergendo, evidentemente c'era una serie di fattori che lo permetteva. Questo oggi non so se c'è, forse ho qualche dubbio. Sicuramente rispetto ad allora la situazione soggettiva è peggiorata, nel senso che non siamo noi in questi 20 anni, quando dico noi intendo le collettività, le realtà più o meno organizzate, che comunque aree che si riconoscono, siamo diventati tutti più deboli e questo non aiuta. Forse bisogna reimparare da qui, perché non è che si può volare nel tempo, semplicemente imparando, guardando le esperienze del passato, anche quelle di Genova, e capire che quando tu riesci a produrre un livello di cooperazione tra diversi, nelle condizioni date, perché la storia non ci ripete mai uguale, se non appunto come sappiamo, e bisogna imparare, a mio modo di vedere, questo sarebbe utile, riguardare non solo il momento della repressione, ma anche tutto che c'era prima, dopo, l'elaborazione, la capacità di cooperare tra diversi, perché tu ti trovi davanti un avversario, un nemico che è potente, è mille volte più potente di te, e quindi tu ti devi porre il problema come costruire i percorsi, il tipo di conflitto e anche il tipo di cooperazione tra diversi soggetti che ti possa dare, oltre la forza della ragione, anche la ragione della forza, perché questo poi alla fine è sempre lì, cioè sono i rapporti di forza che comandano, non si sfugge da quella cosa lì, se ti vuoi confrontare e ottenere risultati. Ce l'ha di fronte questo problema il movimento transfemminista, ce l'ha di fronte il movimento per la giustizia climatica, per citare i due movimenti forse più interessanti politicamente oggi parlando. E non a caso questi due movimenti hanno in qualche modo riproposto, riscoperto un terreno che dopo gli anni di Genova è andato disperso completamente, cioè la dimensione globale e internazionale, cioè la cooperazione non può essere solo locale o nazionale, perché tutti i confronti con dinamiche, questione e forze e poteri che sono sovranazionali, sono, anche se la forza repressiva è nazionale e continuerà a rimanere nazionale, gli interessi che, sì, che sono in movimento sono sovranazionali. Basta guardare oggi lo stato in Europa, basta vedere qual è la fisionomia per esempio di Draghi, del suo governo, del suo ruolo. È chiaro che c'è un intreccio internazionale che si muove, tu devi confrontare con questo livello di analisi, ma anche a livello di tua soggettiva organizzazione. Questo è un altro magari insegnamento, però credo che sia positivo che appunto questi due movimenti che ho citato, che a me sembrano quelli più interessanti degli ultimi anni, stanno proprio loro riscoprendo quella dimensione lì, nella pratica anzitutto, però poi bisogna praticarla anche soggettivamente, bisogna coglierla. Io credo che quello che manca oggi è riscoprire una forza, la capacità di cooperare, ma anche la capacità di cercare di disegnare orizzonti. Noi allora dicevamo un altro mondo è possibile, ma c'era pieno di seminari, di idee sempre ovunque, ci si parlava, si elaborava. Oggi l'elaborazione è debole, è scarsa per tutti noi. Stiamo un po' rincorrendo il terreno che ci impone l'avversario e i suoi discorsi alla fine. Quindi bisogna un po' guardare questi temi cercando di imparare, senza copiare, perché copiare non funziona, i viaggi nel tempo non hanno mai funzionato. Siamo nel 2021, con il mondo così com'è, abbiamo alle spalle rispetto a Genova le crisi economiche di un decennio fa, abbiamo alle spalle altre guerre, abbiamo alle spalle Daesh, abbiamo le devastazioni delle guerre che hanno prodotto allora Afghanistan e Iraq, e abbiamo alle spalle, magari alle spalle, neanche più di tanto, la pandemia. Quindi questo è il mondo in cui ci muoviamo oggi, e quindi qui vanno cercate collettivamente le risposte. Però appunto io credo, questo ci tengo io personalmente, poi non sempre tutti sono d'accordo, bisogna essere consapevoli che le microidentità e i fortini, dicendo, occorre cooperare, occorre elaborare più collettivamente, e occorre guardare oltre la città, la regione, il paese, da riscoprire una dimensione che è la dimensione che è pratica, dove il padrone è l'avversario. Va bene, allora noi a questo punto direi che ti abbiamo già rotto le scatole abbastanza, anzi io ti ho rotto le scatole abbastanza, le altre persone che fanno parte della Radio di Zam sono molto più gentili e simpatiche di me. Ti ringraziamo tantissimo Luciano, perché ci hai dato due volte la tua disponibilità, e questo veramente non è da tutti, da tutte. Grazie ancora. Vabbè, è importante che il microfono sia stato acceso. Sì, sì, era acceso, è acceso anche adesso. Ho controllato, la registrazione sta ancora funzionando, per cui siamo funzionati, dovrebbe aver funzionato tutto quanto questa volta. Grazie mille ancora Luciano, le puntate usciranno tra qui e il 20 tendenzialmente, la tua dovrebbe essere tra le ultime, diamo il tempo a chi ci fa il podcast di sistemare qualche livello e dare qualche lucidata ai suoni, e niente, ti ringraziamo ancora e ci rivediamo presto, probabilmente il 20 di luglio a Genova. Grazie a voi e un abbraccio a tutti e tutte. Ciao, allora vi lasciamo con 99 passi alla vita che vendrà, un disco che è uscito nel 2001, non a caso, e basta, buona giornata a tutti e tutte. Que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad y con decisión la patria